Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Nessun medico giapponese è venuto in Vaticano a visitare il Papa, non vi sono stati esami del tipo indicato dall'articolo. Gli uffici competenti mi hanno confermato che non vi sono stati voli di elicotteri arrivati in Vaticano dall'esterno, neppure nel mese di gennaio, perlomeno se non erano fantasmi non si sono visti. Posso confermare che il Papa gode di buona salute, al più c'è qualche problema alle gambe, ma la testa mi sembra assolutamente perfetta. E quindi la testa del Papa sta benissimo, così ha rassicurato, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il padre Lombardi, capo dell'ufficio stampa del Vaticano, in merito a questa notizia che era, è stata data dal quotidiano nazionale oggi, che aveva allarmato un po' tutto il mondo, in cui si diceva che Papa Francesco ha un piccolo tumore benigno al cervello, voci rincorse, poi smentite, però il direttore del quotidiano nazionale insiste, dice che ne ha le prove di questa cosa, però avete sentito padre Lombardi così ha detto. Fra l'altro questo primario, questo luminare giapponese si chiama Fukushima, come la località dove sapete che quando c'è stato il terremoto in Giappone, terribile terremoto in Giappone, erano fuoriuscite le radiazioni dalla centrale nucleare, quindi una strana coincidenza con questo nome. Comunque per il momento la questione pare chiusa qui, ne parleremo, ma parleremo anche delle dimissioni della sottosegretaria dei beni culturali del PD Barracciu, perché è stata rinviata a giudizio, ne parleremo con l'esponente del PD. Poi tantissime cose, perché c'è il giallo dell'imprenditore scomparso nel Bresciano, che diventa sempre più giallo, perché non solo un operaio ha detto di aver visto una fumata strana proprio quel giorno dalla fonderia di cui era proprietario l'imprenditore, proprio quel giorno in cui lui è scomparso, ma poco fa è emerso anche che la moglie dell'imprenditore scomparso ha detto c'erano degli screzi con il fratello e aveva paura per i suoi figli. E poi ci sono anche delle novità sul caso di Vaprio Dadda, dove il pensionato di cui abbiamo parlato ieri, 65enne, ha sparato a un ladro in casa. Pare che la sua ricostruzione non collimi perfettamente con le rivelazioni, con le rilevazioni degli inquirenti, la perizia balistica eccetera. Anche questo tema approfondiremo. E poi ci occuperemo anche di una frase, di uno scivolone, come definirlo, del primo ministro Netanyahu, roba un po' paradossale, che ha detto in un congresso sionista, ha detto in realtà Hitler non voleva eliminare gli ebrei, soltanto allontanarli dalla Germania, ma fu il mufti di Gerusalemme che gli consigliò di bruciarli. Siamo abituati un po' a tutto. Seguite Effetto Notte, non perdete nessun istante stasera di questa puntata ricchissima, e voi con le vostre opinioni sapete che potete scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte in qualsiasi momento, giorno e notte lì per voi, oppure mandare i messaggi al 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. I temi sono tanti, quindi non ve ne lancio uno specifico, decidete voi. Vi riassumo intanto la giornata. La sicurezza italiana, il Consiglio Supremo di Difesa dice che si osserva una situazione della sicurezza in rapido deterioramento in aree molto prossime all'Italia e all'Europa. Le dimissioni della sottosegretaria Barracciu, rinviata a giudizio per le spese pazze della regione Sardegna, lei dice sono innocente e ne uscirò a testa alta. L'inchiesta Why Not, assolti De Magistris e Genchi perché il fatto non sussiste, il sindaco di Napoli commenta sono molto felice. La salute del Papa, il Vaticano smentisce che sia malato e commenta è una voce manipolata d'arte. Stati Uniti, il vicepresidente Joe Biden annuncia non mi candido alle presidenziali 2016 ma non sarò silente. Il caso di Vaprio Dadda, accertamenti sulla ricostruzione del pensionato che ha ucciso il ladro 22enne entrato nella sua proprietà. Il giallo del Bresciano, il giorno della scomparsa dell'imprenditore, dice un operaio dell'azienda, ci fu una fumata strana dalla fonderia e la moglie di Bozzoli fa sapere che aveva paura per i suoi figli. Bufera sul primo ministro israeliano Netanyahu, Hitler non voleva eliminare gli ebrei, dice, poi fa marcia indietro in conferenza stampa con Angela Merkel. Turchia espulsa la minorenne italiana fermata nel paese, è tornata a casa. Lutto nel giornalismo, è morta la giornalista Maria Grazia Capulli, volto del TG2, era malata da tempo. Ferrari avvio boom a Wall Street per il cavallino rosso, e per il calcio Champions League in campo la Juventus contro il Borussia, una vittoria vale la qualificazione agli ottavi. E partiamo quindi da questo allarme particolare che emerge dalle relazioni dei ministeri degli esteri e della difesa. Si osserva, viene detto, un quadro delle relazioni internazionali e della sicurezza in rapido e sensibile deterioramento in aree molto prossime all'Italia e all'Europa. Questo è quanto sottolinea il Quirinale al termine del Consiglio Supremo di Difesa, una volta esaminate queste relazioni appunto dei ministri degli esteri e della difesa. Capiremo meglio nelle prossime ore in che cosa consiste, in che cosa si voglia dire. Poi le dimissioni della sottosegretaria Barracciu, Francesca Barracciu, sottosegretaria dei beni culturali, indagata nell'ambito dell'inchiesta sul presunto uso illecito dei fondi dei gruppi del Consiglio regionale della Sardegna, le cosiddette spese pazze del Consiglio regionale della Sardegna, si è dimessa. Ritengo doveroso dimettermi, ha detto, ed avere tutta la libertà e l'autonomia necessarie in questa battaglia dalla quale sono certa uscirò a testa alta. E su questo, vi dicevo, poi interverremo con un esponente del PD. All'uscita del Campidoglio, l'assessore, parliamo di Marino, l'assessora al patrimonio Alessandra Cattoi, braccio destro di Marino, ha ribadito che non c'è l'appoggio in giunta per proseguire il mandato, ma il sindaco Marino utilizzerà tutti i 20 giorni previsti dalla legge. Sentiamo l'assessora Cattoi al microfono di Enza Loddo. Il sindaco non ha utilizzato denaro pubblico per fini privati, lo ha detto ai magistrati e lo ha detto ieri in una conferenza stampa. Questa è la cosa principale. Dopodiché c'è una situazione politica decisamente compromessa. Il Consiglio Comunale non dà la maggioranza al sindaco, questo è un fatto. E di conseguenza il sindaco ha dato le dimissioni e che scadranno il 2 novembre. Perché scadono il 2 novembre? Perché la legge dice: caro sindaco, tu compi un atto gravissimo perché tu stai contravvenendo a una volontà dei cittadini che ti hanno eletto, quindi ci devi pensare bene, prendi, fai tutto quello che è necessario fare prima di prendere una decisione così importante e così grave. Questo è quello che sta facendo il sindaco, niente di più, non resiste, non sta facendo delle strategie, non sta facendo niente di diverso da quello che prevede la legge. Sentiamo un po' Renzi a 8 e mezzo, che sta facendo 2000 dichiarazioni, vediamo se ne becchiamo qualcuna. Possibilità di poter spendere i denari che hanno, e ce ne sono tanti ancora. Io no, probabilmente lei no, la Palmerini no, ma c'è un sacco di contante fermo, ce lo dicono le banche, ce lo dicono tutti gli istituti interessati, che sono bloccati perché c'è la preoccupazione e l'impressione, diciamo così, che l'Italia, come posso dire, sfavorisca e non agevoli i consumi, e quindi l'idea di renderla più semplice è un vantaggio. Sta difendendo la questione del limite ai 3.000 euro, poi ha detto meno tasse per tutti, infatti sul contante non si cambia, pronti la fiducia e mille altre cose che adesso non posso riassumervi così brevemente perché continua a parlare a 8 e mezzo con Lilli Gruber. Passiamo invece all'inchiesta Why Not. La terza corte d'appello di Roma ha assolto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il consulente Gioacchino Genchi dall'accusa di abuso d'ufficio in relazione alla vicenda dell'acquisizione di tabulati telefonici di politici. Ci sono felice, così ha detto il sindaco De Magistris, che grazie proprio a questa soluzione non subirà la sospensione che era prevista in caso di condanna dalla legge Severino. Ricordate, ieri abbiamo detto che la Corte Costituzionale è arrivata alla sentenza della Consulta che ha detto che la legge Severino è costituzionale, quindi aveva bocciato il ricorso di De Magistris. Ma De Magistris in questo caso quindi non rischia, bisogna vedere cosa succederà invece al presidente della Regione Campania De Luca. Ma adesso torniamo sul Vaticano, che appunto avete sentito all'inizio, nega con fermezza che il Papa sia malato. Notizie irresponsabili, dice la Santa Sede. Nessun medico giapponese è venuto in Vaticano a visitare il Papa. Posso confermare che il Papa gode di buona salute. Così padre Federico Lombardi riguardo le notizie ritenute gravemente irresponsabili sulla salute del Papa pubblicate oggi dal Quotidiano Nazionale. Un atto assolutamente inqualificabile, soprattutto dopo le verifiche con le fonti opportune in prima persona con lo stesso Santo Padre. Papa Francesco stamani era in piazza San Pietro per il consueto giro prima dell'udienza generale del mercoledì, dove sorridente come sempre ha benedetto la folla che lo aspettava. E in udienza, rivolgendosi agli ammalati, ha ricordato che domani ricorre la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II. Portate con gioia la croce della sofferenza come lui ci ha insegnato, ha detto. Un accenno più che mai suggestivo in una giornata come quella di oggi, in cui non si parlava d'altro che delle sue condizioni di salute. Secondo il Quotidiano Nazionale, infatti, il Papa avrebbe un piccolo tumore al cervello, curabile e tale da non richiedere un intervento chirurgico, e per questo sarebbe stato seguito da Takanori Fukushima, un luminare giapponese che collabora con la clinica San Rossore di Pisa. L'ufficio di Fukushima ha smentito la notizia definendola assolutamente falsa. E anche per l'Osservatore Romano le notizie sulla salute del Papa sono totalmente false e il momento scelto rivela l'intento manipolatorio del polverone sollevato. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vogliamo sentire ancora un pezzetto di Renzi, 8:30, cosa dice? Pingiamo un tasto, la rinviano o da soli o col commercialista. Lo sa cosa abbiamo scoperto facendo queste, e l'abbiamo fatta noi, per primi, la dichiarazione della diplomazia. Ah, sta parlando delle lettere che partiranno per chi ha fatto il 7:30 telematico, diciamo, precompilato, mi sembra di precomplicato. Evidentemente qualcuno, a proposito di complicazione, non ha capito qualcosa, in buona fede, chi lo sa, e quindi sono state inviate queste lettere per dire guardate che ci sono degli errori. Spostiamoci sulle notizie dall'estero. Stati Uniti, non sarò candidato ma non sarò silente, lo ha detto il vicepresidente americano Joe Biden, annunciando quindi la sua rinuncia a scendere in campo per le presidenziali del 2016. Al suo fianco nel Rose Garden della Casa Bianca c'era il presidente Barack Obama e anche la moglie Jill, quindi insomma rinuncia a questa candidatura per i democratici, quindi resta la figura forte di Hillary Clinton per il momento. E poi la bufera su Netanyahu, primo ministro israeliano, che ha detto Hitler non voleva sterminare gli ebrei, è stato il Gran Mufti di Gerusalemme, poi ha fatto marcia indietro in una conferenza stampa con la cancelliera Angela Merkel. Tra l'altro i tedeschi avevano detto in giornata no, noi ci assumiamo la responsabilità, noi non si cambia così la storia. Ne parleremo di questo. E invece andiamo sulla Turchia, perché è stata espulsa dal paese, ha fatto ritorno a casa la minorenne italiana che era stata fermata nei giorni scorsi dalla polizia turca nella provincia meridionale di Adana. E ora di nuovo in Italia con la legge di stabilità in attesa del visto del Quirinale, di cui probabilmente sta molto parlando anche Renzi. Tarda ad arrivare in Parlamento il testo della legge di stabilità. Atteso per oggi in Senato, come annunciato dal Presidente del Consiglio Renzi, il provvedimento sarebbe in realtà ancora sulla strada del Quirinale. Un passaggio questo obbligato per consentire al Colle una prima valutazione degli oltre 60 articoli e della corrispondenza tra impianto e coperture. La manovra così vistata dal Capo dello Stato approderebbe a Palazzo Madama non prima di venerdì. Sul fronte dei contenuti non dovrebbero esserci intanto ulteriori sorprese dopo il chiarimento fatto dallo stesso Presidente del Consiglio sul taglio di IMU e TASI sulle prime case. Ville e castelli continueranno a pagare, dice Renzi, quanto alla tassa sui servizi indivisibili, spiegano dal Tesoro, l'eliminazione non riguarderà tutti gli inquilini, visto che chi vive in una casa in affitto, non in un'abitazione principale, continuerà a pagare la sua quota insieme al proprietario. Inoltre vi sarebbe la proroga della cosiddetta addizionale TASI, ovvero la facoltà per i comuni di portare l'aliquota fino allo 0,8% in più. Sull'assenza intanto ancora del testo in Parlamento arriva il pressing di Selle minoranza PD, con quest'ultima che chiede un passo indietro su contanti e giochi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca, il pensionato accusato di omicidio volontario Vaprio Dada si difende, ma le ricostruzioni della procura in parte lo smentiscono e dopo capiremo bene di cosa si tratta con un magistrato. Intanto domani parte una grande mobilitazione annunciata dalla Lega in tutte le regioni del nord alle 17:30, militanti che saranno un po' in varie davanti a vari tribunali, principali tribunali del nord. E poi c'è il giallo del bresciano, come vi dicevo all'inizio. Il giorno della scomparsa dell'imprenditore, dice un operaio dell'azienda, ci fu una fumata strana nella fonderia e intanto anche la moglie dell'imprenditore scomparso, Bozzoli, fa sapere che aveva paura per i suoi figli. Poi approfondiremo anche queste novità che riguardano il giallo del bresciano. E c'è da segnalare un lutto nel giornalismo: è morta la giornalista Maria Grazia Capulli, volto del TG2, era malata da tempo, l'annuncio è stato dato dai colleghi. Fino a 48 ore fa lavorava con noi, ha detto il direttore del TG2 Marcello Masi. C'è un dolore palpabile in tutta la redazione, era una grande professionista, scrupolosa, sensibile e attenta. Per chiudere invece c'è Dario Ricci, che a Torino sta seguendo la Juventus che è in campo per la Champions contro il Borussia Mönchengladbach. Dario? Buona la prima prova, Roberta. Ce l'ho fatta a dirlo. Ma puoi anche far meglio nei prossimi collegamenti. Nome impronunciabile di una delle grandi del calcio europeo. La voce mia è tremata perché c'è stato il calcio d'angolo quando siamo al 31esimo di quadrato, il colpo di testa di Chiellini, alto davvero di poco sulla traversa del portiere Sommer. Siamo ancora sullo 0-0 però tra Juventus e Borussia Mönchengladbach, in una Juventus che sta provando a prendere in mano le redini del centrocampo. Qualche buona occasione si vede, soprattutto anche Pogba, che è andato un paio di volte alla conclusione in maniera piuttosto pericolosa, ma occhio a questo Borussia che sotto la guida tecnica di Schubert è rinato dopo un difficile avvio di stagione. 32esimo di gioco qui allo Juventus Stadium, Juventus 0 Borussia Mönchengladbach 0, così come anche tra Manchester City e Siviglia nell'altra gara del gruppo D. Grazie Dario Ricci e ci aggiorniamo dopo, facci sapere se la Juventus farà dei gol nel frattempo. Mentre prima di lasciarci brevemente per aggiornare chi sta viaggiando, voglio leggere poi i vostri commenti. Non vi ho lanciato un tema in particolare perché sono talmente tanti stasera. Ieri abbiamo parlato di legittima difesa, ci ritorneremo con le novità che riguardano il caso di Vaprio Dadda. Un ascoltatore scrive al 349-238-6666: ma è mai possibile che un albanese espulso nel 2013 sia ancora libero di rapinare nel territorio italiano? Il pensionato dovrebbe chiedere lui il processo contro lo Stato che non si è assicurato di averlo espulso e che non riesce a tutelare i propri concittadini. Va premiato, al di là che vada premiato o no, però effettivamente questo giovane albanese ladro che è stato ucciso da questo pensionato, al di là della dinamica, era noto alle forze di polizia per vari reati, era stato espulso già tempo fa. Continuiamo tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, tra poco parleremo delle dimissioni della sottosegretaria Barraccio e poi ci sono i casi di cronaca che hanno delle novità, sia quello di Vaprio Dadda sia il giallo dell'imprenditore scomparso nel Bresciano. Prima però, se avete acceso la radio in ritardo anziché puntualmente alle 21 per sentire le notizie principali, ve le ricordo. Volevo vedere un altro messaggio però tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Dice Alessandro da Conegliano: la proprietà privata è inviolabile, nessuno deve entrare in casa se non ha consenso. Per quello che riguarda la delinquenza, se lo Stato non fa giustizia, se la fa il cittadino, meglio morto un delinquente che una persona onesta. Insomma, si sente un po' la rabbia, anche l'insicurezza. Poi però sentiremo appunto che novità ci sono sulla ricostruzione di quello che è successo a Vaprio Dadda. Intanto queste le notizie principali. Vaticano smentisce la malattia del Papa, ha detto che sta benissimo, è un polverone con intento manipolatorio, dicono dal Vaticano, questa notizia che fosse malato il Papa. E poi Renzi, che sta parlando ancora a 8:30 sulla 7, dice: Verdini in maggioranza? Oggi no, ma da qui al 2018, cioè alla fine della legislatura, chissà mai. E intanto la sottosegretaria Barraccio a giudizio si dimette. Il Premier, il Presidente del Consiglio, difende ancora la questione del contante, non si cambia, pronti anche alla fiducia, meno tasse per tutti. Queste sono le varie dichiarazioni che sta facendo in questi ultimi minuti. E poi Consiglio Supremo, per quanto riguarda l'Italia, il terrorismo è una minaccia che può investire il nostro paese, e intanto c'è Assad, il presidente siriano, che a sorpresa va da Putin. E la notizia che vi ho dato prima: dalla Turchia è stata espulsa la 17enne italiana, è tornata a casa. La Ferrari debutta Wall Street, vola sopra i $60, Marchionne apre la seduta e suona la campanella con Elkann. E poi questa frase di Netanyahu, primo ministro israeliano, che ha detto Hitler non voleva sterminare gli ebrei, bufera su di lui. E poi Berlino che diceva no, la responsabilità è tedesca, e l'autorità nazionale palestinese dice Netanyahu vuole cambiare la storia. Il ladro ucciso a Vaprio Dadda smentito, il pensionato sarebbe stato colpito fuori da casa sua. E poi la Lego sommersa dalle richieste, regali di Natale a rischio il colosso danese. Pensate, sembra per certi versi è andato un po' in crisi, poi di nuovo questo successo tra i bambini. Non so se Walter Verini, deputato, capogruppo PD, commissione giustizia, ha mai giocato con Lego? Sì, da bambino sì, poi anche da grande, perché i miei figli a loro volta giocavano con Lego. Si è divertito, poi sembrava scomparso, invece poi grande successo, addirittura troppe richieste. Ma con Walter Verini parliamo di cose più pragmatiche, più serie. Parliamo delle dimissioni della sottosegretaria ai beni culturali Francesca Barraccio del PD. Questo è successo, queste dimissioni, dopo la notizia del rinvio a giudizio, perché è accusata di peculato aggravato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto uso illecito dei fondi dei gruppi del Consiglio regionale della Sardegna. Varie spese pazze delle varie regioni, questo riguarda la Sardegna. E l'esponente del PD era stata indagata durante le primarie del centrosinistra per l'elezione del presidente della regione Sardegna, che aveva vinto, ma poi per questo motivo fece un passo indietro. Il PM contesta all'esponente del PD spese per €81.000 effettuate quando sedeva nei banchi del Consiglio regionale della Sardegna. Il processo comincerà il 2 febbraio dell'anno prossimo, quindi nel 2016. La Barraccio ha detto: rinvio a giudizio, mi amareggio, già mi difenderò con determinazione, ritengo doveroso dimettermi, sono innocente, però dice ne uscirò a testa alta. Come commenta Walter Verini questa situazione? Avete un po' di guai ultimamente nel PD? Sì, questo è perché la politica italiana che è nei guai e il PD che è un po' la forza centrale, ovviamente nel bene molto e anche nel male evidentemente è interessato. Ma io penso che sia stato quello della Baracci un gesto di grande correttezza. Un rinvio a giudizio non è una condanna. Io mi auguro, credo, spero che lei saprà dimostrare la sua correttezza nelle, diciamo, rispetto alle accuse che le vengono rivolte. Era finora indagata, adesso c'è stato questo rinvio a giudizio, poi come noto fino al terzo grado di giudizio una persona può e deve essere considerata innocente e tuttavia lei ha voluto togliere, diciamo, se stessa innanzitutto e anche il governo da un possibile attacco, da speculazioni politiche, da un possibile imbarazzo. Quindi io credo che sia stato un gesto di correttezza politica e personale che tutela meglio se stessa, perché potrà difendersi nel giudizio, dimostrare la sua estraneità alle accuse e al tempo stesso mette a riparo il governo da attacchi magari spesso strumentali per questa situazione. L'ho molto apprezzato come gesto, questo voglio dire. Onorevole Verini, però Renzi ha detto: non ho chiesto le dimissioni a Barracci, ma è un gesto personale molto apprezzabile di rispetto, non basta essere indagati per dimettersi, ma andiamo a casa chi condannato non indagato. Ma come la mettiamo con la questione Di Marino, che chiede ancora adesso una verifica, dice già questi 20 giorni in cui posso ripensare le mie dimissioni? Lì si tratta di poche migliaia di euro, in realtà 5.000 euro, questa cosa degli scontrini che lui dice sono innocente. Dite le stesse cose per Marino? Ma guardi, io non credo che Marino, se si è dimesso, lo abbia fatto per la storia degli scontrini. Anche su questo io mi auguro che lui, come ha già detto di aver fatto lì davanti alla procura dove si è recato spontaneamente, dimostrerà la correttezza, ha detto che sono stati i suoi collaboratori a diciamo non correttamente riportare gli scontrini e i giustificativi, diciamo così. Dopodiché il tema di Marino è un po' più profondo, nel senso che la crisi di Marino è una crisi politica, si è rotto un po' un rapporto, semmai si era mai consolidato, questo va detto, con la città, nel senso che Marino non ha dato, non ha saputo dare, e non certamente solo per colpa sua, ma un sindaco nel bene e nel male subisce sia le critiche sia i consensi. Ecco, non ha saputo legare, come era capitato in passato ad altri importanti sindaci del centro-sinistra, penso a Rutelli, penso a Veltroni, per non andare indietro troppo indietro nel tempo. Ecco, Marino non ha avuto questo feeling con la città, non ha saputo dare risposte ad alcuni problemi della vita quotidiana importanti per i cittadini, il traffico, il trasporto pubblico, la pulizia della città. Poi naturalmente ci sono stati anche degli attacchi strumentali, perché Marino è un uomo, è un po' un irregolare, non è uno irregimentato, lo definivano il marziano, proprio perché è un atipico, e questo era la sua forza e anche la sua debolezza, almeno all'inizio era la sua forza, poi può essere stata un po' la sua debolezza. Infine c'è stata anche la vicenda cosiddetta mafia capitale, che ha colpito veramente in maniera pesante pezzi dell'amministrazione comunale. Insomma, non si è dimesso per gli scontrini, eventualmente quella vicenda è stata la goccia che può aver fatto traboccare un vaso, ma è un po' la credibilità sua personale e politica dell'amministrazione che si era logorata. Io credo che sia questo il problema della città di Roma. Onorevole Verini, le faccio un'ultima domanda, non credo che sia proprio la sua competenza, però se ci aiuta a tradurre questo allarme che è arrivato dalla relazione del Ministero degli Esteri e della Difesa del Consiglio Supremo, che dice la sicurezza è in rapido deterioramento, si osserva un quadro delle relazioni internazionali della sicurezza in rapido e sensibile deterioramento in aree molto prossime all'Italia e all'Europa. Io faccio così questa domanda, è arrivata da pochissimo questa notizia, magari non ne sa nulla neanche lei. No, obiettivamente no, però nel senso che la riunione era in corso nel pomeriggio ed era dedicata anche ad alcune, come noto, decisioni che il Paese dovrà prendere, come quella di rispondere all'appello, alla richiesta degli Stati Uniti d'America di mantenere ancora la nostra presenza in Afghanistan. Dopodiché è ancora vediamo che in Libia l'accordo che l'inviato dell'ONU Bernardino León ha perfezionato come bozza, anche con il contributo di Federica Mogherini e la Commissione Europea, non è ancora stato approvato. Ieri c'è stata una situazione dove non si è votato tra tutte le componenti, e questo significa che non si è votato perché probabilmente sarebbe stato bocciato se si fosse votato. Quindi il fatto che ancora c'è una situazione di forte instabilità in Libia, e quindi molto prossimamente al nostro paese nel Mediterraneo, e insieme credo che sia un allarme. Non mi pare di capire che ci siano casi specifici, allarmi specifici, no, ma c'è una considerazione generale che è quella nota. Siamo poi alla vigilia di un evento importante come il Giubileo, che porterà certamente messaggi universali di grande valore, ma porta con sé anche dei rischi, perché può essere un bersaglio sia a Roma sia l'Italia del terrorismo islamico. Insomma, credo che il Consiglio Supremo di Difesa abbia riconfermato il quadro noto, senza aggravamenti né miglioramenti. Grazie. Un'impressione superficiale, non vorrei sbagliare. Grazie comunque anche per questo chiarimento, onorevole Walter Verini, le auguro buona serata. Buona serata anche a voi, grazie. Grazie. Prima di prenderci questa pausa di ricreazione, voglio dare ancora uno sguardo ai vostri messaggi, ancora sulla questione di Vaprio Dadda. Chi dice che appunto è il 65enne pensionato che ha ucciso il ladro è un eroe, chi dice che ci vuole in questi casi più lucidità, anche se è molto complicato naturalmente in situazioni come queste. Comunque torneremo a parlare, ne abbiamo parlato già diffusamente ieri, ci torneremo tra poco con un magistrato e poi parleremo anche di questo giallo sempre più misterioso e anche inquietante dell'imprenditore scomparso nel Bresciano dopo. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, continuano ad arrivare i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. C'è un ascoltatore, Balanzone si firma, ogni tanto fa l'ironico qui a Effetto Notte, e dice a proposito della Lego, che vi dicevo tra le notizie è sommersa dalle richieste, regali di Natale a rischio, colosso danese, lavoriamo anche di notte, dicono, chiesto a Verini del PD se giocava a Lego, dice i politici giocano con Lego, tanto così per sorridere. Poi invece un ascoltatore scrive al 349-238-6666: il terrorismo comincia con i banditi che entrano nelle case dei cittadini onesti. Molti vostri messaggi sia ieri che oggi su questa vicenda di Vaprio Dadda, e poi ce ne sono sulla pagina Facebook di Effetto Notte anche relativamente al mistero dell'imprenditore scomparso nel Bresciano. Dice: mistero, ma quale mistero? Scrive Alberto: è finito nella fornace, chi l'ha buttato? Cercate nell'ambiente di lavoro. Chiaro che già gli inquirenti lo stanno facendo, e magari il cerchio è più stretto di quello che possa sembrare. Vi ricordo brevemente le notizie più importanti e poi entriamo in questi argomenti. La sicurezza italiana, il Consiglio Supremo di Difesa dice che si osserva una situazione della sicurezza in rapido deterioramento in aree molto prossime all'Italia e all'Europa. Le dimissioni della sottosegretaria Barraccio, ne abbiamo appena parlato, rinviata a giudizio per le spese pazze della regione Sardegna, lei dice sono innocente, ne uscirò a testa alta. L'inchiesta Why Not, assolti dei magistris e Genchi perché il fatto non sussiste, il sindaco di Napoli commenta sono molto felice. La salute del Papa, il Vaticano smentisce che sia malato e commenta una voce manipolata d'arte. Stati Uniti, il vicepresidente Joe Biden annuncia non mi candido alle presidenziali. Il caso di Vaprio Dadda, accertamenti sulla ricostruzione del pensionato che ha ucciso il ladro 22enne entrato nella sua proprietà. Il giallo nel Bresciano, ci sono delle novità di cui parleremo tra pochissimo. E poi la bufera sul primo ministro israeliano Netanyahu: Hitler non voleva sterminare gli ebrei, dice poi ritratta. E poi per quanto riguarda la Champions, c'è ancora la Roma contro la Juventus, scusate, a Torino contro il Borussia, e dovrebbe procedere per il momento 0-0. torniamo adesso sul fatto di cronaca nera avvenuto a Vaprio Dadda, vicino Milano. Ne abbiamo parlato molto ieri di questo fatto di un uomo di 65 anni, un pensionato esasperato dai ripetuti furti in casa sua, che nella notte dell'altro ieri si è visto piombare un ladro in casa, così ha detto, e gli ha sparato con la pistola che deteneva regolarmente. Lui diceva che non avrebbe voluto sparargli se avesse saputo che era disarmato, non voleva che morisse, ed è stato indagato prima per eccesso di legittima difesa, poi per omicidio volontario, e di questo abbiamo trattato molto ieri da un punto di vista giuridico. Però adesso, con le indagini e con l'interrogatorio che ha avuto oggi il pensionato, sono emersi nuovi particolari. Intanto il giovane ladro ucciso non è un rumeno ma un albanese di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine perché per reati contro il patrimonio nel 2013 era stato espulso dall'Italia dopo la scarcerazione, in seguito era rientrato illegalmente. E se avessi saputo che l'uomo era disarmato non gli avrei sparato addosso, ma in aria, ha detto anche oggi il 65enne Francesco Sicignato, che appunto ha spiegato di aver sparato in cucina alla distanza di 2,5 metri. Però secondo le perizie balistiche fatte oggi sembrerebbe che il colpo invece sia stato sparato dall'alto verso il basso, e sembra che il corpo del giovane ladro fosse sulle scale e non all'interno. Cambia qualcosa in questo caso? Ne parliamo con Fabio Roia, magistrato di Milano, giudice e presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Buonasera, dottor Roia. Buonasera a voi. Quindi, parlando di legittima difesa e del cambiamento di ieri rispetto a oggi delle rilevazioni, insomma, degli inquirenti, allora sembrerebbe che in realtà non è vero che fosse in casa questo ladro, al di là che la gravità magari possa essere più o meno la stessa per chi subisce una cosa del genere, ma sulle scale esterne. E la questione di legittima difesa cambia molto? Sì, direi cambia molto. La legittima difesa, fra l'altro, è una norma rivista recentemente nel 2006, è stata riaggiustata. E dunque il ragionamento da fare è questo: prima di tutto io vedo che c'è una grossa difficoltà di comunicazione fra il mondo del diritto e il mondo della politica, proprio non riusciamo a capirci. Ma il mondo del diritto dice sostanzialmente questo: tutti gli ordinamenti, fra cui il nostro, ci sono dei beni primari da tutelare. In scala a questi beni c'è sicuramente la vita della persona, la salute di una persona. Poi ci sono anche altri beni, fra i quali il patrimonio. La norma sulla legittima difesa, che è stata appunto rivista e riscritta nel 2006, dice che è possibile all'interno della propria abitazione anche usare le armi legittimamente detenute, quando però esiste una proporzione fra il pericolo che uno subisce e l'offesa che reca. In questo caso è stato attinto un bene primario, cioè la vita di una persona. Allora bisogna verificare se c'è questo rapporto di proporzione, che già la legge dice in pratica, perché sussista questo rapporto di proporzione, perché sia applicabile la legittima difesa, occorrono due condizioni: che la persona fosse all'interno del domicilio, e qui in pratica ci siamo, ma che, e questa è una condizione che sembrerebbe mancare, vi fosse un pericolo concreto di aggressione alla persona che ha subito il furto, che in questo caso, da quello che si legge oggi sui giornali e dalle prime indagini, sembrerebbe mancare, perché sembrerebbe che la persona che poi è deceduta se ne stava andando dall'abitazione. In questo caso, mancando questo secondo requisito, non è legittimo l'uso delle armi e si va in un'altra fattispecie di reato. Allo stato è un'ipotesi investigativa, ovviamente devono essere fatti tutti gli accertamenti, ma può esistere l'ipotesi di omicidio volontario. Secondo lei invece, se fosse stato in casa e fosse stato a una distanza di 2,5 metri, come diceva il pensionato, sarebbe stato legittimo aver paura che l'altro avesse un'arma o che stesse per aggredire o facesse del male a sé o sì, è proprio il caso della difesa legittima così come riscritta nel 2006, proprio in relazione a questo problema. Fra l'altro mi ricordo che fu un'iniziativa parlamentare della Lega, perché si fa riferimento proprio alle aggressioni subite nella casa propria. E quindi, se uno teme, oltre che per i propri beni, quindi per la proprietà, abbiamo visto un bene secondario ovviamente rispetto alla vita, ma c'è un pericolo per la propria incolumità, vi è un pericolo concreto di aggressione che una persona percepisce, è legittimo in questo caso usare anche l'arma per annullare l'azione che viene ritenuta essere posta nei confronti della propria vita e nella propria incolumità personale. Però devono esserci queste due condizioni. Qui sembrerebbe che invece la persona se ne stava andando, che il colpo è stato sparato a distanza, addirittura con una traiettoria dall'alto verso il basso, e quindi queste due condizioni della contestualità e del pericolo di subire un'aggressione alla propria vita non ci fosse. Ecco perché il pubblico ministero, ripeto, è un'ipotesi investigativa e poi tutto dovrà essere vagliato, in questa fase ha contestato l'omicidio volontario. Poi potrebbe esserci un eccesso colposo di legittima difesa, si potrebbe andare in un'altra fattispecie di reato meno grave, ma allo stato, per quello che si legge oggi, è corretta la contestazione che viene fatta dalla Procura di Milano. Quindi bisogna aspettare i prossimi sviluppi. Intanto la ringrazio moltissimo, dottor Fabio Roia, grazie della disponibilità. Grazie a voi, buonasera. Grazie, buona serata. E dal caso di Fabio Dadda passiamo invece a quello continua a essere molto misterioso, dell'imprenditore scomparso nel bresciano Mario Bozzoli, titolare della fonderia di Marcheno, sparito l'8 ottobre, e aveva salutato gli operai, però pare che non fosse mai uscito dalla sua fonderia. Poi il giallo si è complicato quando è stato trovato pochi giorni dopo il corpo dell'operaio che doveva testimoniare di quanto era successo. Invece era scomparso anche lui nel nulla e poi è stato ritrovato morto, Giuseppe Ghirardini, vicino alle montagne intorno a Ponte di Legno a Brescia. E poi ci sono delle novità ulteriori di oggi, emerse oggi, di un operaio che avrebbe detto in una trasmissione, avrebbe detto che in quella giornata dell'8 ottobre ci fu una fumata strana nella fonderia. Diceva, quando ci sono delle cose che non funzionano ci sono delle fumate diverse dal solito, proprio il giorno della scomparsa dell'imprenditore. E poi la moglie dell'imprenditore Bozzoli, che ha detto che temeva per ultimamente, diceva di avere paura per i propri figli perché c'erano degli screzi in famiglia. Ci facciamo un po' ricostruire la vicenda e l'atmosfera da Andrea Cittadini, giornalista del Giornale di Brescia. Buonasera Andrea. Sì, buonasera a voi. Quindi le novità sono queste che dicevo, queste dichiarazioni della moglie e di questo operaio che parlava di questa fumata anomala. Sì, ci sono soprattutto le dichiarazioni della moglie, perché già il giorno successivo la scomparsa di Mario Bozzoli, la donna, andando dai carabinieri a denunciare appunto la scomparsa del marito, ha rilasciato un verbale che, riletto oggi a distanza di 15 giorni, fa per certi versi un po' impressione, perché innanzitutto è prima di tutto proprio la donna a spiegare che, quando dice, gli operai dicevano di avere riavviato un sistema che era andato in errore e aveva causato una fumata dal locale dei forni. Quindi già il giorno dopo si era a conoscenza di questa fumata anomala di uno dei tre forni presenti in azienda. Elemento che poi è stato confermato nei giorni successivi da uno degli operai presenti, quindi è il giorno della conferma da parte di questo operaio. Poi la procura ha deciso, quindi siamo a martedì scorso, di sequestrare l'azienda di Marcheno. Il giorno dopo avrebbe dovuto testimoniare Ghirardini, invece poi è scomparso nel nulla e ritrovato, come detto, cadavere domenica. In tutto questo c'è il giallo poi dei telefoni, perché nel telefonino di Mario Bozzoli, che ha fatto l'ultima telefonata alle 19.11 dell'8 ottobre alla moglie, né il telefonino di Ghirardini, che ha agganciato mercoledì scorso una cella nei pressi del Passo Croce Domini, si trova. Quindi due telefonini che sono scomparsi, Protezione Civile e i Carabinieri lo stanno cercando, quello di Ghirardini soprattutto, per vedere perché questo dipendente della fonderia si sia allontanato, che cosa conteneva il suo cellulare, perché c'era motivo di gettarlo. Questo è un grande mistero, anche perché Ghirardini, è vero, va via nel giorno in cui deve essere interrogato dai carabinieri, era già stato ascoltato, però doveva rilasciare un interrogatorio vero e proprio, sparisce, dice ai parenti vado a caccia, mentre lascia a casa cani e fucili, fa 130 km a bordo della sua macchina, quindi va, è da tutt'altra parte rispetto a quella che è la sua abitazione, che è a Marcheno, paese e cuore di tutta questa vicenda. E chiaramente ci sono tanti misteri. Al momento l'autopsia sul corpo del dipendente della Bozzoli ha detto che non ci sono tracce di segni di violenza, però anche oggi il procuratore capo Tommaso Buonanno confermava che ci vuole ancora del tempo per capire se sia stata morte naturale. E quindi ci sarà ancora tempo, ma sembra che il cerchio si stringa sempre di più. Le dichiarazioni anche della moglie di Bozzoli mi sembrano piuttosto gravi, però aspettiamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sì, sono dichiarazioni sicuramente molto gravi che ha voluto la moglie far mettere a verbale, proprio per precisare quello che era il clima all'interno. C'è, poi vi dico solamente quest'ultima frase, che quella è un pochino più inquietante per poi come è andata la vicenda, quando dice di fatto mio marito aveva paura che un giorno recandosi in azienda non sarebbe più riuscito ad aprire il cancello per andare al lavoro, di fatto invece Bossi ha trovato il cancello chiuso per uscendo. Già, certo. Ironia della sorte. Grazie Andrea Cittadini del Giornale di Brescia. Ciao voi, Andrea, buon lavoro. Viabilità. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. In pochi secondi, anzi le più importanti a proposito di sicurezza italiana. Il Consiglio Supremo di Difesa dice che si osserva una situazione della sicurezza in Italia in rapido deterioramento in aree molto prossime al nostro paese e all'Europa. Poi il Vaticano smentisce la malattia del Papa, dice sta benissimo. Le dimissioni della sottosegretaria Barracciu del PD, rinviata a giudizio per le spese pazze, della regione Sardegna, lei dice sono innocente, ne uscirò a testa alta. E poi l'inchiesta Why Not, assolti dei magistri e Genchi perché il fatto non sussiste, il sindaco di Napoli commenta: sono molto felice. Poi del giallo del Bresciano e del caso di Vaprio Dadda abbiamo appena parlato. Sul caso di Vaprio Dadda, accertamenti sulla ricostruzione del pensionato che ha ucciso il ladro 22enne entrato nella sua proprietà. Europa 24 notte. Hanno siglato accordi fiscali ad hoc ricevendo trattamenti di favore classificabili come aiuti di Stato illegali. Per questo Fiat Chrysler e Starbucks dovranno restituire le tasse arretrate a Lussemburgo e Olanda per almeno 20-30 milioni di euro. Questa è la decisione della Commissione europea dopo 15 mesi di indagini. Un paradosso, spiega Marco Zanni, membro della Commissione speciale Tax Ruling al Parlamento europeo. A incassare i soldi saranno proprio quegli Stati che hanno concesso i vantaggi fiscali. Utili trasferiti all'estero e sottostimati attraverso complessi calcoli utilizzati dalle multinazionali per pagare meno tasse e possibili grazie ad accordi fiscali ad hoc con i singoli paesi. Tutti i metodi che la Commissione europea definisce aiuti di Stato illegali perché concedono vantaggi concorrenziali sreali ad alcune aziende a scapito di altre, soprattutto medio-piccole. Così Bruxelles ha imposto a Fiat Chrysler e Starbucks di restituire rispettivamente a Lussemburgo e Olanda le tasse arretrate per almeno 20-30 milioni di euro. Un paradosso, ci spiega Marco Zanni, membro della Commissione speciale Tax Ruling al Parlamento europeo. Queste aziende saranno costrette a restituire questi soldi che sono probabilmente stati sottratti ad altri stati membri spostando i profitti da dove effettivamente c'è l'attività economica a Lussemburgo e all'Olanda, agli stessi stati membri che li hanno aiutati a eludere il fisco, perché questo prevede la normativa sugli aiuti di Stato. Di per sé i tax ruling, cioè gli accordi fiscali tra Stati e multinazionali, sono legali, spiegano da Bruxelles, ma Fiat e Starbucks hanno utilizzato metodi artificiosi per determinare gli utili imponibili non corrispondenti alle condizioni di mercato. Nel dettaglio, Starbucks ha trasferito profitti all'estero attraverso vendite infragruppo, mentre la società di finanziamento di FCA ha sottostimato gli utili da assoggettare a imposta. Anche se il Granducato si difende e dice di non aver mai concesso aiuti. Per evitare che si ripetano casi simili, la proposta è indicare una base imponibile comune per i 28 stati membri dell'Unione, come propone Zanni. Il problema oggi con i tax ruling qual è? È che la base imponibile può essere modificata in maniera artificiosa. Tu puoi azzerare la tua base imponibile in un paese dove c'è un'alta tassazione e la puoi artificiosamente trasportare in un altro paese dove questa tassazione è quasi zero. L'unica cosa da fare sarebbe rendere pubblici tutti gli accordi fiscali. Un primo step è stato fatto il 6 ottobre. Ci racconta Roberto Gualtieri, presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. Non si può lasciare solo nelle mani dell'autorità europea per la concorrenza affrontare il problema dell'erosione della base fiscale, lo spostamento dei profitti. Servono misure legislative, alcuni primi passi sono stati compiuti, anche se misure insufficienti come lo scambio automatico di informazioni. Adesso attendiamo finalmente altre misure sulle quali presenteremo anche delle proposte come Parlamento per affrontare in modo organico il problema appunto dello spostamento dei profitti. In attesa la Commissione europea avverte: abbiamo altre indagini in corso, siamo pronti ad aprire altre inchieste. Nel mirino ci sono Apple in Irlanda, Amazon in Lussemburgo e il Belgio. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Parliamo invece adesso dello scalpore che hanno suscitato le cose dette dal primo ministro israeliano Netanyahu in un congresso sionista. Ha detto: Hitler all'epoca della seconda guerra mondiale non voleva sterminare gli ebrei ma solo espellerli, fu invece convinto alla soluzione finale dal mufti di Gerusalemme Amin al-Hussein, leader palestinese all'epoca della guerra mondiale. Mufti andò da Hitler e disse: se li espelli gli ebrei tedeschi verranno in Palestina, allora cosa dovrei fare? Gli chiese Hitler, secondo quanto ha detto Netanyahu, chiese al mufti e Mufti rispose: bruciali. L'incontro si era verificato in realtà nel novembre del 1941, mentre campi di concentramento e gassificazione erano già operativi dal 1940. Il portavoce di Angela Merkel, questa è la cosa particolare, oggi ha detto: ma cosa dice? Conosciamo bene l'origine dei fatti ed è giusto che la responsabilità sia sulle spalle dei tedeschi. Allora anche Netanyahu poi ha ritrattato a Berlino in una conferenza stampa con Angela Merkel, dicendo: sì, è vero, Hitler che ha voluto la soluzione finale. Insomma, una specie di revisionismo ebraico. Chiedo a Shulim Volgeman, che dirige la collana israeliana per la casa editrice Giuntina ed è uno dei curatori del Festival della Cultura Ebraica a Roma. Che dice Volgeman? Beh, effettivamente sembrerebbe uno scivolone, se non che è stato pronunciato in un discorso ufficiale importante prima di andare in Germania in visita ufficiale. E quindi bisogna chiedersi perché lo ha detto. Intanto una risposta potrebbe essere, guardando anche tutti i giornali del mondo e radio del mondo, che adesso tutti sanno chi è stato questo Amin al-Husseini, ossia è stato un fomentatore di violenza fra musulmani ed ebrei, un estremista islamico che ha fatto assassinare tutti i moderati musulmani di Palestina negli anni 20 e soprattutto si è alleato con Hitler comandando fra l'altro le SS bosniache musulmane responsabili di aver assassinato il 90% degli ebrei di Bosnia. E quindi non solo adesso il mondo sa chi è Husseini, ma Netanyahu ha, come dire, si è giustificato per questa frase chiaramente paradossale, diciamo, paradossale, no? Dicendo: sì, ma io volevo far capire che l'odio arabo nei confronti degli ebrei non ha niente a che fare con l'occupazione, ma ha sempre esistito, ha delle solide basi proprio essenziali, portando probabilmente l'esempio di questo Husseini. Anche se poteva forse spiegarlo in un altro modo, no? Se proprio pensava a questo, non facendo ricadere sui palestinesi quello che Hitler poi ha fatto, no? Sì, certo, ma soprattutto la questione è dell'uso politico della storia, una cosa a cui nelle democrazie, Israele è una democrazia, non fanno, che invece in questo caso non dovremmo Sì, esatto, e questo fa un po' cadere le braccia, direi di sì. Grazie Shulim Volgeman, grazie, arrivederci, noi ci risentiamo alle 22.